su CRM Happy Radio. Like the legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Buongiorno a tutti, buongiorno e bentornati, ben svegliati con la musica di CRM, con Deja Vu. Sono Peppe Carrozza, giovedì 20 giugno 2013, sono le 10:19 Intanto vi ricordo subito come potete seguirci ovviamente nelle frequenze radio in FM 104.1 e 104, oppure potete seguirci anche direttamente dal nostro sito www.crmpiradio.it. potete inviare un sms al 335 56 37 251, telefonare allo 0921 9232 92 92. Se poi non siete ancora fan nostri su Facebook, andate sulla nostra pagina CRM Happy Radio e andate a cliccare il bottone mi piace. Abbiamo iniziato con i Red Hot Chili Peppers, poi abbiamo avuto Daft Punk e ora abbiamo i M83 con Midnight City. A tra poco. Giornata di nuovo di sole, di gran caldo, anche se oggi magari un po' di arietta che viene dal mare è anche piuttosto consolante per il nostro corpo. Ebbene, però il caldo, quello afoso, a quanto pare ha i minuti contati, perché da oggi già al nord-ovest comincia ad essere un po' attenuata l'afa, mentre continuerà a fare molto caldo in tutte le altre regioni. Domani poi l'afa finirà anche nel resto del centro-sud e dentro il fine settimana anche al sud, con un termico, con un calo termico che riporterà le temperature intorno ai valori normali di questo periodo, ossia tra i 26 e i 30 gradi al centro-nord e appena qualche grado in più al sud. Inoltre i temporali in arrivo al nord-ovest nella giornata di oggi potranno risultare intensi e accompagnati anche da grandine a causa del forte contrasto termico. La buona notizia è che un tempo estivo ma senza eccessi di caldo come in questi giorni potrebbe durare fino agli ultimi giorni del mese, quindi approfittiamone magari per chi è libero, ovviamente, perché chi lavora ancora mi starà maledicendo, soprattutto anche gli studenti che oggi sono impegnati con la seconda prova degli esami di maturità. Intanto faccio i miei migliori in bocca al lupo per tutti i maturandi. Parleremo anche di caldo e di consigli, vi daremo anche dei consigli sull'alimentazione, su come prendere ovviamente anche il sole in questi giorni di caldo. Ma intanto andiamo avanti con la nostra musica, abbiamo Antonio Maggio con Nonostante tutto. Se parli male, menti. Se parli bene, menti. Lo fai da tempo, ormai ci ho fatto l'abitudine. Non fare più commenti, non voglio chiari, menti. Potresti solo peggiorare il quadro clinico. Non c'è modo che io possa accettare questo modo di amare, prevalentemente ascetico. Siamo come carne che è andata male a forza di sorvolare sulle nostre falsità. Ma nonostante tutto, io non voglio perderti, voglio solo illudermi che va tutto bene. Ma nonostante tutto, proverò a difenderci dalle nostre deboli buone volontà. Non trovo i miei indugi, lo giuro altri, menti. Andremo mano nella mano soli al cinema, tra scuse e conve, niente. E falsi intendi, menti. Noi due portiamo avanti questa storia frigida, forse siamo poco inclini ad osare, per paura di andare incontro ad una crisi isterica. Nella vita se non provi a rischiare, poi continui a sbagliare, non ti raccapezzi più. Ma nonostante tutto, io non voglio perderti, voglio solo illudermi che va tutto bene. Ma nonostante tutto, proverò a difenderci dalle nostre deboli buone volontà. Bene, parlavamo di caldo e di abbronzatura e quindi possiamo finalmente dirlo, l'estate è finalmente arrivata e gli italiani potranno dedicarsi a una delle loro attività preferite, e cioè il bagno di sole. Infatti il 40% della popolazione del paese, dell'Italia, afferma di avere come obiettivo una tintarella perfetta, ambizione diffusa in particolare tra i giovani e le donne. Un quinto poi si dice abbronzatura dipendente, arrivando a crogiolarsi al sole per più di 5 ore al giorno. A sorpresa anche il fascino della pelle burnea conquista una discreta fetta di italiani, infatti una persona su 10 dichiara di preferire i raggi di luna a quelli solari. Il consiglio, specie se per chi ha una carnagione chiara, è ovviamente quello di esporsi gradualmente al sole e di evitare le ore più calde della giornata. Per raggiungere l'agognato traguardo di una pelle color miele, non solo creme e lozioni, ma anche qualche trucco naturale, a partire dall'alimentazione. Infatti un'abbronzatura sana si fonda sul consumo di cibi ricchi di vitamina A, come sottolinea la Coldiretti, i quali stimolano la produzione della melanina, che è il pigmento cutaneo responsabile dell'effetto tintarella. Sul podio dei cibi che abbronzano svettano le carote con i loro 1200 microgrammi di vitamina A per ogni 100 grammi di prodotto. Seguono poi gli spinaci e il radicchio, il cui apporto vitaminico è circa la metà rispetto a quello garantito dalle carote, ed infine le albicocche. Possono aiutare anche insalate, cicoria, lattughe, meloni, peperoni, pomodori, fragole e ciliegie. Non sto vendendo ortaggi e frutta, però sembra che sono l'ambulante stradale, ma non lo sono, tranquilli. Gli amanti del sole devono comunque ricordare di reidratare l'organismo, soprattutto attraverso il consumo di frutta e verdura, alimenti in grado di assicurare importanti quantità di liquidi e sali minerali. Quindi fate bene attenzione a come prendete il sole e aiutatevi anche con l'alimentazione sana di frutta e verdura. Intanto andiamo avanti con la nostra musica, abbiamo Fiorella Mannoia con Le notti di maggio, anche se maggio in realtà è passato. A tra poco. Parlare, se in questa notte di maggio io ti penso ad ascoltare certe piccole voci che a volte vanno al cuore, in questi momenti con l'aria che si muove, io conosco la mia vita e ho visto il mare. E ho visto l'amore da poterne parlare, ma nelle notti di maggio non può bastare la voce di una canzone per lasciarsi andare. Amore, su quel treno che è già amore senza rimpianto e senza confronto, e conosci la tua vita ma non hai visto il mare, e non hai l'amore per poterne parlare. Ma è una notte di maggio che ci si può aspettare. Con cui davvero si può parlare di questa sera ferita da non lasciarsi andare, in questa notte da soli che non ci si può vedere e non ci si può contare ma solo ricordare. Io conosco la mia vita e di una canzone per lasciarsi andare nelle notti come questa che ci si può aspettare, se non una canzone per farsi ricordare a te, per farsi ricordare da te. Déjà vu su CRM Happy Radio. Follow it. tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Sins. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like erano i Bastille con Pompei su CRM Piredi. Ora andiamo a dare una notizia un po' che in qualche modo mi riguarda, perché parliamo di uomini in cui si dice che pensano sia meglio che i loro capelli siano grigi piuttosto che non averne proprio. Ebbene, il modello George Clooney conserva il suo appeal sulle donne ed è ormai accettato anche dagli uomini, i quali sono convertiti all'idea di avere i capelli brizzolati o sale e pepe, ed è un motivo di fascino in più che piuttosto che un difetto da nascondere. Fino a molto tempo fa, invece, i capelli grigi erano motivo di imbarazzo, tanto che si ricorreva a certi trattamenti antigrigio, anche se questi, invece di restituire il colore originale, conferivano ai capelli una colorazione finta e riconoscibile senza possibile appello. Se l'incanutimento dunque è ormai accettato, quello che invece agli uomini dà in testa è il fatto di perdere i capelli. Diventare calvi è un vero e proprio flagello e motivo di sconforto per molti. Un'indagine condotta nel Regno Unito ha messo infatti in luce come ben il 66% dei maschi preferisca di gran lunga diventare grigio che non perdere i capelli. Il sondaggio è stato condotto per conto dell'azienda britannica di prodotti per capelli Fuge e rivela che, tra l'altro, come più del 10% degli intervistati sarebbe addirittura disposto a tingersi i capelli di grigio imitando una capigliatura brizzolata pur di tenere il passo con le ultime tendenze di stile. Il 20% dei partecipanti al sondaggio ha poi dichiarato di desiderare i capelli, se ancora li ha, più lunghi, in modo da emulare stili di qualche tempo fa riportati in auge da personaggi come il calciatore David Beckham e l'attore Bradley Cooper, che è famoso anche per aver recitato all'interno del film Una notte da leoni, in cui faceva il personaggio di Phil. Insomma, anche se a volte non lo danno a vedere, i maschi ci tengono alla loro capigliatura. Purtroppo, oggi più che mai, questa è messa a dura prova da quello che un tempo era chiamato il logorio della vita moderna. Non è un caso, infatti, che in giro si vedano sempre più teste rasate, stile palla da biliardo, E questo è il prezzo da pagare per uno stile di vita che sempre meno è a misura d'uomo, inteso ovviamente come essere umano, e che prima o poi presenta il conto. La società moderna offre molte soluzioni per quasi tutto, ma ancora è carente quando si tratta di reale benessere e prevenzione delle malattie. Beh, questo messaggio io lo vorrei inviare a tutti i miei amici che mi prendono in giro, perché a 30 anni ho già i capelli bianchi da 12 anni. E vorrei dire in particolare a Enzo che lui i capelli li sta perdendo. Io ce li ho grigi, lui li sta perdendo, quindi ma quale cosa sarà meglio? Non lo so. Intanto lo saluto, visto che ci sta ascoltando oggi in macchina e non al computer in streaming, e noi andiamo avanti con la nostra musica di casa nostra. Abbiamo Caruso e Valenziano con Oh Mami Dada, Oh Mami Dadi. You want to call my sugar, you want to call my lover. I mean the right one who can love me for who I am and not for what I got. Caruso Valentino, let's take this music to another level. Oh eh, oh eh, oh, oh eh, oh eh, eh. Oh eh, oh eh, right one love. Oh eh, oh eh, oh, oh eh, oh eh, eh. Andiamo avanti con le nostre notizie, ora parliamo un po' di voi donne. Parliamo di menopausa. Ebbene, sembra che sia un errore evolutivo causato da noi uomini. Beh, l'insistente ticchettio dell'orologio biologico femminile a un certo punto si arresta. Sopravviene allora la menopausa, la fine dell'età fertile nella vita di una donna. Ma perché il gentil sesso va incontro, caso unico nel mondo animale, a questo stop riproduttivo? Uno studio canadese pubblicato su PLOS Computational Biology fornisce una nuova spiegazione, che potrebbe non piacere troppo a noi uomini. Arrivati a una certa età, i maschi, desiderosi di diventare padri, cercano una compagna più giovane. Per le loro coetanee, a quel punto le chance di avere figli si riducono e la scelta più conveniente per il loro corpo è quella di entrare in menopausa. La chiusura dell'età fertile femminile sarebbe quindi un incidente dell'evoluzione imputabile alle preferenze sessuali maschili. Utilizzando modelli computazionali, i ricercatori di una università del Canada hanno dimostrato come sia stata nel tempo la scelta maschile di partner più giovani a favorire quell'insieme di cambiamenti biologici e genetici che hanno portato le donne a sviluppare la menopausa. L'ipotesi contraddice la diffusa teoria che la menopausa sia una soluzione evolutiva che impedisce alle donne più anziane di partorire, spingendole invece ad accudire i nipoti e aiutando i figli e sostenendo così la propria discendenza. Secondo uno degli autori dello studio, lo sviluppo di infertilità è un controsenso dal punto di vista dell'evoluzione che dovrebbe incoraggiare la continuazione della specie, sarebbe un semplice riconoscimento del fatto che dopo una certa età la fertilità non serve più. E poiché la selezione naturale punta alla sopravvivenza del gruppo attraverso il successo individuale, incoraggia le possibilità riproduttive nelle donne che hanno maggiori probabilità di essere scelte. Beh, ci mancava anche che ci imputassero anche questa colpa, va bene. Noi intanto andiamo avanti con la musica. Questa è una dedica particolare che io vorrei fare oggi. Oggi è il 20 giugno 2013 e io questa la voglio dedicare al mio cane che oggi compie 8 anni. Auguri Albino! Deja Vu su CRM Happy Radio. Semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te. Sono l'uomo di questa sera, sono l'uomo di primavera. Facciamo bene a stare insieme stasera, facciamo bene perché è sabato sera, facciamo bene, facciamo perché c'è l'occasione e l'atmosfera. Sì, facciamo bene perché siamo vivi, domani chi lo sa. Sono un uomo vero, sono un uomo solo. Sono l'uomo di questa sera, sono l'uomo di primavera. Facciamo bene stare insieme stasera, facciamo bene perché è sabato sera, facciamo bene, facciamo perché è l'occasione e c'è l'atmosfera. Sì, facciamo bene perché siamo vivi, vivi, vivi. Domani chi lo sa. Sono un uomo, sono l'uomo più semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te. Vasco Rossi su CRM Happy Radio con l'uomo più semplice. Ringraziamo Enzo che ce l'ha richiesta e che la dedica alla sua Lauretta. Bene, a proposito di Vasco Rossi, torna in concerto per concludere il suo tour con 013. Vediamo che sabato, domenica e mercoledì, quindi il 22, 23 e 26 giugno, tornerà a casa, diciamo così, dato che lui è tosco-emiliano, della zona tosco-emiliana, tornerà a Bologna allo Stadio Dallara a concludere questo suo grande tour che è cominciato a Torino qualche settimana fa. Intanto noi andiamo avanti con la nostra musica, contentiamo anche Anna Maria che ci sta ascoltando da Castelbuono e che salutiamo con questa canzone dei Queen che è Crazy Little Thing Called Love. Thank you. and get on my tracks. Take a long ride on my boulevard to a ready. Raise the little thing all over. Una canzone molto allegra questa dei Queen, Crazy Little Thing Called Love. Adesso abbiamo accontentato Anna Maria, andiamo ad accontentare ora invece Sergio, che ci sta ascoltando addirittura da Roma, dalla capitale. Saluto Sergio e saluto anche la capitale, che è stata la mia città di adozione per 3 anni durante la mia accademia. Abbiamo ora i Muse con Supremacy, richiesta appunto da Sergio. Buon ascolto. History.

by the time the bar closes. Ethan con featuring Janelle Monae con We Are Young qui su CRM Happy Radio. Abbiamo una notizia un po' così. Il letto che fa scoppiare la coppia, quindi c'è anche questo pericolo. Infatti l'alcova è un luogo bollente non solo per la passione o in questi giorni a causa delle temperature afose dell'estate. La condivisione del letto, inteso come luogo del riposo, è spesso un fatto critico che porta addirittura il 43% delle coppie a litigare anche in modo aspro. Si bisticcia per molti motivi diversi, in primo luogo per la temperatura sotto le lenzuola, oppure perché il partner si agita troppo o russa, o ancora perché tiene la luce accesa a lungo mentre l'altro vorrebbe dormire. I dati di questo curioso sondaggio sono pubblicati dal Wall Street Journal, il quale dedica un servizio alle coppie in cui i due partner dividono il letto. L'indagine è stata realizzata dalla Better Sleep Council, che è un ramo della maggiore associazione statunitense di produttori di materassi. Analizzando i motivi del malcontento che infiammano il talamo, purtroppo stavolta non a causa della passione, il primo motivo di contesa è quella della temperatura del letto. Se ne lamenta il 43% delle coppie. Al secondo posto c'è la coabitazione notturna con un compagno troppo agitato o rumoroso, a quota 40%. Insomma, avere un compagno troppo caldo quando si cerca di prendere sonno è sgradevole, quanto dover convivere con il russare notturno. I più insofferenti al calore si sono rivelati gli uomini, ma anche le donne in menopausa, le persone sovrappeso o chi ha un metabolismo veloce. Il problema è così diffuso che negli Stati Uniti già da un paio di anni sono in circolazione una serie di rimedi per, diciamo così, raffreddare il letto. Ad esempio, grazie a speciali materassi a effetto raffreddante, anche funzionanti ad acqua, in grado poi di abbassare di alcuni gradi la temperatura. Ci sono poi speciali materassini da sovrapporre al normale materasso, che fanno circolare l'aria calda e fredda in modo differenziato ai due lati, in modo da garantire a ciascuno la temperatura preferita. Con questi accorgimenti, che stanno riscuotendo un grandissimo successo commerciale, si riesce a portare la temperatura sotto le lenzuola dai fisiologici 37 gradi, legati al calore corporeo, a una frescura compresa tra i 29 e i 32 gradi. Naturalmente, per raffreddare l'aria della stanza scusate, è sufficiente ricorrere a un normale condizionatore. Un altro studio realizzato lo scorso anno dall'associazione no profit National Sleep Foundation ha scoperto che, secondo il 67% dei consumatori, la temperatura fresca della camera da letto è di grande importanza per un buon riposo notturno. Circa il 17% del campione si lamentava in particolare della temperatura raggiunta dal proprio materasso mentre si cerca di prendere sonno. Si sopporta quando il partner lascia la luce accesa del comodino, ma non il caldo, sostengono in molti. Insomma, la tecnologia cerca di ovviare al problema puntando sul raffreddamento del partner caloroso, che invece chi invece soffre il freddo può ovviamente facilmente ovviare al problema con dei meccanismi che creano nel talamo, semplicemente indossando il classico pigiama, quello pesante. Alcuni consigli magari per cercare di mantenere un po' di calma all'interno della coppia. Continuiamo con la nostra musica, abbiamo adesso Max Gazzè con Sotto Casa. Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Possa la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, e non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, quali certi omini in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io, che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messo

Déjà Vu su CRM Happy Radio. Con te CRM Happy Radio. Di noi il sole l'azzurro Giorgia qui su CRM Happy Radio con Di Sole d'Azzurro. Ringraziamo Alessia che ce l'ha richiesta, che dedica la dedica al suo Antonio. A proposito di azzurro, io oggi mi sono vestito d'azzurro con cercando un po' di riprendermi anche la situazione della notte con la partita, e speriamo che possa portare bene alla nostra nazionale di calcio. La vedo brutta però, ma vedremo un po'. Intanto c'è Hola con I'm in Love. Shut me up on Wednesday. Rewind it back the day before Tuesday. Stole my heart on Monday. She had me deep on Tuesday. Shut me up on Wednesday. Wish I was not, wish I was not. But I'm in love. Yeah. ancora una ventina di minuti ancora insieme. Io saluto Fabio, che è il mio collega di corso. Ciao Fabio, e tanti in bocca al lupo per questo esame che stai preparando. Addirittura stai studiando un libro di 1500 pagine, non vorrei essere al tuo posto. Ciao Fabio ancora, e un mega abbraccio da parte mia. E intanto continuiamo con la nostra musica, con Robin Thicke, con Blurry Lines. Ancora una dozzina di minuti qui in diretta su CRM Happy Radio. Io stavolta voglio salutare per bene Mary Catalano, che mi ha lasciato qui il suo programma, e vorrei anche ringraziarla per tutti gli insegnamenti che mi ha fatto durante questo periodo. Salutiamo anche Antonella, che mi ha richiesto di mettere la webcam in regia, e adesso accontentiamo anche Giorgetta, anche se mi aveva chiesto un'altra canzone, però non l'abbiamo in archivio. Giorgetta, mi dispiace, ma accontentati di questa, dai. A Follow Rivers di Lake Lee.

Volevo darvi, visto che abbiamo parlato oggi di concerti, vi do anche altre date riguardo un altro artista, stavolta anche lui italiano, che è Jovanotti, che ha cominciato il suo tour giorno 7 ad Ancona, e da oggi torna di nuovo in concerto. Ieri è stato a Milano, oggi replicherà nuovamente a Milano, poi domenica 23 sarà allo stadio Artemio Franchi di Firenze, il 28 venerdì giugno, il 28 giugno venerdì allo stadio Olimpico di Roma, martedì 2 luglio allo stadio Arechi di Salerno, poi sabato 6 luglio sarà qui in Sicilia a Palermo al velodromo Borsellino, mercoledì 10 allo stadio Adriatico di Pescara, il sabato 13 allo stadio Euganeo di Padova e martedì 16 luglio allo stadio Olimpico di Torino a concludere il suo tour di quest'anno, del 2013, dell'estate 2013. Ci sono alcune notizie riguardo Jovanotti, perché riguardo il suo concerto, perché lo vedrete, chi ha la possibilità di poter andare a vedere il concerto di Jovanotti lo vedrà cambiare abito per ben 6 volte, a secondo la tematica delle canzoni che andrà a trattare. Avremo si parte subito con Ciao Mamma, che è uno dei classici che ha dato il via libera, il via alla sua propria carriera da rapper, e poi avremo anche Bella, Raggio di Sole, Baciami Ancora, Piove, Tutto l'amore che ho, La notte dei desideri, Tanto, Io danzo, poi Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Ragazzo fortunato, e poi a concludere Penso positivo. All'interno del concerto troveremo anche questa canzone che andremo ad ascoltare, che io voglio dedicare a tutti gli ascoltatori notturni, perché vi ricordo che potete seguirci anche in replica alle 22 stasera, per coloro che se la sono magari persa, quindi quale migliore occasione per augurarvi una buona notte con questa canzone che adesso, aspettate ve la metto, andremo ad ascoltare. Io intanto ci salutiamo poi dopo la canzone. Questo è sempre Jovanotti, quindi con Ti porto via con me, e io questa notte vi vorrei portare tutti con me nel mio cuore, e farvi anche ascoltare questa notte, ecco. Fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica, in questo inizio del mondo. I nostri sguardi si cercano con ali fatte di musica. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa atmosfera ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Ti porto via con me, in questa notte fantastica. Ti porto via con me, ribalteremo il mondo. Una fischiata di passi che fanno vibrare la spina dorsale, una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale. Due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica nuova. Dentro la macchina suona una ritmica forte, si sente da fuori. Un temporale elettronico lava la polvere dai cuori. DJ suona, musica buona, BPM 130. Respira, respiro, ti porto via con me, in questa notte fantastica, di questo inizio del mondo, con mille storie che nascono e mille amori che esplodono in mezzo alla via, fanno una luce più forte del sole, in questo spazio elettronico. Posso toccare il cielo, ti porto via con me, in questa notte fantastica, ti porto via con me, ribalteremo il mondo. Una cascata di bassi che spingono il mondo ad un nuovo mattino, donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita. Senti il dolore si scioglie nel tempo che scorre, che scivola via. Non resterò qui a guardare, ho già iniziato a viaggiare. Ti porto via con me, ti porto via con me, oh, ti porto via con me. Speriamo veramente di ribatterlo questo mondo, amici, veramente, perché sta andando quasi a sfracelli. Speriamo bene. E vi auguro una buona giornata, faccio gli auguri anche a mio padre che oggi fa l'onomastico, e San Ettore, a tutti coloro che si chiamano Ettore. Un buon weekend, buona giornata, ciao a tutti! Sono le 12 e 4 minuti. L'ora esatta vi è offerta dall'orologeria e gioielleria Danna Vincenzo, Corso Ruggero 34, Cefalù. CRM Notizie. Buongiorno. Cuore, voglia e fortuna. L'Italia batte 4-3 il Giappone di Zaccheroni e vola in semifinale di Confederations Cup. Sabato la sfida con il Brasile padrone di casa che vale la testa del girone. Gerardo De Vivo. Di buono c'è la